Buonasera, benvenute, benvenuti tutti quanti ai nostri consueti incontri settimanali di approfondimento, dibattiti o presentazione di libri. Questa sera ho il piacere di incontrare di nuovo il dottor Leoni, che è stato già nostro ospite presso questa biblioteca alcuni anni fa, e vi vediamo con grande piacere. E il tema sarà appunto la presentazione di questo volume, di questa opera, Il diradarsi dell'oscurità al Trentino, i Trentini nella Seconda Guerra Mondiale, 1939-1945. I volumi li potete visionare intanto qui sul tavolo, sono presso la biblioteca, e questa sera qui con noi appunto anche il dottor Tomazzoni, con cui abbiamo avuto lo scambio epistolare di preparazione, ci ha segnalato questa opera che è a cura anche del laboratorio di storia di Rovereto, e saluto anche la signora De Florian che partecipa alla presentazione in questa sera. C'è anche il dottor Filippini. Filippini. E il dottor Filippini. Che si è eclissato, ma c'è. Certo. Forse è la dietro. Sta arrivando. Forse sta leggendo. Ah, ecco. Perché non sono l'autore. Il giornalista Filippini. Ecco, questa settimana abbiamo anche altri incontri, come di consueto lasciamo sempre sulla sedia del materiale informativo riguardante le nostre iniziative, un opuscolo che illustra le attività di questa biblioteca e i servizi, e inoltre anche un modulo di iscrizione, chi avesse piacere di essere informato delle nostre attività, delle nostre iniziative, basta solo che compili questo modulo, è tutto gratuito. Abbiamo anche l'ausilio di un videoproiettore, per cui a un certo punto spegneremo la luce, no, vabbè, non si vede. Se non risulta particolarmente facile la visione. Vi ringrazio, abbiamo sempre, come sempre, una bibliografia corredata, insomma, legata all'argomento che verrà discusso. Vi ringrazio ancora in anticipo e grazie anche ai relatori. Buon ascolto e buona serata. Grazie. Sì, forse sì. Si sente? Sì. Innanzitutto anche da parte nostra un ringraziamento a chi ha organizzato questa serata e anche a chi ha inteso partecipare a questo incontro. Spendo due parole per presentare il laboratorio di storia di Rovereto, perché forse non tutti lo conoscete. Sapete che origine ha, come si è sviluppata la sua attività, che cosa è oggi a 23 anni di distanza dalla sua nascita. Il laboratorio di storia di Rovereto è nato nel 1989 su iniziativa del comune di Rovereto, e quindi a tutt'oggi un figlio, non so se legittimo o illegittimo, insomma, del comune di Rovereto, in particolare l'assessorato alle attività sociali, che in quel fatidico anno gestiva l'Università della Terza Età. Quindi il laboratorio è nato dentro questo contesto, dentro questo contenitore più ampio, che è appunto l'Università della Terza Età, che oggi si chiama Università dell'Età Libera, e rendendosi poi progressivamente autonomo. Da molti anni ormai il laboratorio di storia ha una sua sede, che non è quella dell'Università dell'Età Libera, e ha delle sue, diciamo, prerogative che lo distinguono fortemente rispetto a quell'altro tipo di attività, se non altro perché appunto è un gruppo che fortemente coeso, insomma, un gruppo che si è creato allora, che da allora ha cambiato, diciamo, componenti, ma alcuni sono rimasti già da quegli anni e sono ancora presenti. C'è una forte continuità, ci sono dei meccanismi di trasmissione, insomma, dell'esperienza del laboratorio da una generazione all'altra, da un gruppo all'altro. E e si è configurato fin da subito come un gruppo di ricerca. Gruppo di ricerca anomalo rispetto a un tradizionale gruppo di ricerca che ha magari come caratteristica quella di essere legato, fortemente legato alle, diciamo, agli ambiti istituzionali, agli ambiti accademici, proprio perché è formato da gente qualunque, diciamo. Io sono un insegnante, sono stato insegnante, adesso non lo sono più. Tomazzone è un ingegnere, Filippini, che continua a nascondersi, è un giornalista, di nera credo. E Giancarla, che è qua alla mia destra, è anche lei un ex insegnante, ma insomma poi ci sono, c'è un infermiere, ci sono due ferrovieri, insomma. È la rappresentanza, un modo di rappresentare anche la società da cui è scaturita questa esperienza. E, tutto il primo periodo, diciamo, i primi 10 anni del laboratorio di storia, è stato un periodo rivolto, con l'attenzione rivolta, soprattutto alla storia e alla memoria della città di Rovereto. E la sfida di questa assessora, che ebbe l'intuizione, ebbe l'idea di proporre all'interno dell'università della terza età questa esperienza di laboratorio, chiamando a raccolta degli storici militanti, perché allora io e altri che adesso non sono più nel laboratorio eravamo connotati sia da un punto di vista storiografico che anche da un punto di vista politico, insomma, come delle persone, degli storici, insomma, che poco avevano a che fare con l'ambito accademico. Eravamo fra quelli che allora si dicevano storici scalzi, cioè degli storici che operavano al di fuori dell'ambito universitario, dell'ambito accademico. E lei ebbe questa intuizione, che poteva essere anche alimentare, di mettere a confronto questa giovane allora generazione di storici militanti con un gruppo di volontari che frequentavano l'Università della Terza Età. E fu una miscela esplosiva in tutti i sensi, nel senso che all'inizio non fu facile, perché ci guardavamo un po' in cagnesco, reciprocamente in cagnesco, noi giovani, poi antifascisti militanti, quindi, questi altri che ci guardavano un po' appunto con una certa distanza, perché a loro volta erano vissuti, avevano, almeno i più anziani, insomma, erano vissuti durante il fascismo, erano stati a loro volta giovani fascisti, insomma, ecco, avevano percorso, insomma, tutto l'itinerario classico di quella generazione. Però un po' alla volta, insomma, grazie a qualità mediatrici, di mediazione da una parte e dall'altra, questo gruppo si è fortemente integrato, si è fortemente coeso, al punto di diventare, insomma, un gruppo autonomo rispetto appunto all'Università della Terza Età, e a continuare a lavorare su questo tema, che all'inizio è stato un tema fortemente autobiografico per coloro che partecipavano da corsisti, si diceva allora, e corsisti che divennero poco dopo testimoni ricercatori, perché i primi temi che abbiamo affrontato sono stati la storia della città dal 19 al 39, e poi la storia della città dal 39 al 45, e poi la storia della città dal 14 al 18, quindi coloro che partecipavano da ricercatori erano al contempo testimoni di una storia che loro stessi avevano vissuto, ma anche testimoni di una storia sociale, di una storia collettiva di cui erano in qualche caso fortemente e consapevolmente portatori. E la storia non è più finita, perché siamo qua proprio perché questa storia fortunatamente, insomma, è continuata. con questo salto, con questo scarto che è iniziato non con il diradarsi dell'oscurità, ma con la ricerca che l'ha preceduto, quello sulla Prima Guerra Mondiale, e che ha portato alla redazione, poi all'edizione di questo grosso volume intitolato Il popolo scomparso, il Trentino e i Trentini nella Prima Guerra Mondiale, 1914-1920. Perché uno scarto? Perché da quel momento in poi l'orizzonte del laboratorio di storia del Veneto non è stato più soltanto il contesto urbano della nostra città, non più soltanto la città di Rovereto, ma la provincia di Trento. E questo ci ha costretti a fare un salto, un grosso salto di qualità, nel senso che il gruppo è un gruppo, il gruppo del, diciamo, roveretano, insomma, gruppo storico, ecco. È un gruppo che ha grossissime risorse di ricerca, ma dovendo coprire con la ricerca tutto il territorio provinciale, abbiamo dovuto costruire un po' alla volta una rete di collaborazione, di valle, di paese, che conta sull'apporto di singoli storici, diciamo, un po' sperduti di qua e di là dal Trentino, cosa che ci permette di fare una ricerca che nessun storico da solo potrebbe mai fare. Cioè è una ricerca che ha delle caratteristiche, delle connotazioni, una forza, insomma, di diciamo di approfondimento, di ritrovamento delle fonti e poi anche di restituzione che nessun'altra esperienza di ricerca storica ha, nel senso che non può averla. Noi insistiamo molto su questa caratteristica del laboratorio, dell'attività del laboratorio. È un'attività che presuppone la restituzione della memoria, che presuppone la restituzione della storia. Cioè noi ormai siamo molto conosciuti, siamo anche molto affidabili quando andiamo a chiedere direttamente o indirettamente delle cose. E voi sapete, potete immaginare cosa sono queste cose, insomma sono testimonianze orali, sono frammenti di memorialistica, diari, lettere, fotografie, storie di altro genere, oggettistica in qualche caso, anche quando si tratta per esempio di allestire delle mostre. Ecco, in questo caso noi assicuriamo, garantiamo che tutto ciò che ci viene prestato, perché noi non siamo dei raccoglitori duraturi, no? Il laboratorio è un luogo, è uno spazio di passaggio, cioè tutte le cose che ci servono passano da lì e poi ritornano al mittente se chiede la restituzione, ma la restituzione avviene sotto forma di grande racconto, sotto forma di rivisitazione critica di quel che ci è stato dato, di ricostituzione di tutti questi piccoli frammenti. Alle volte sono proprio piccolissimi questi frammenti, sono una fotografia, sono una testimonianza, sono una lettera, vanno a comporre un grande affresco, un grande mosaico che dà senso anche nel tutto, dà senso anche al piccolo frammento che altrimenti si perderebbe, perché soprattutto quando ci sono di mezzo delle guerre, e queste guerre sono, come nel caso nostro, insomma, sono delle guerre che hanno fortemente diviso la popolazione, sia la prima che la seconda, spesso ci sono forti processi di rimozione di queste memorie, di queste storie, di queste piccole storie. La grande storia è fatta in un certo modo, voi lo sapete, no? E spesso i destini di molti dei nostri padri, dei padri dei nostri padri, sarebbero andati irrimediabilmente persi se qualcuno non li avesse raccolti, e fra questi pochi qualcuno che li raccoglie ci siamo anche noi. Due parole sul Diradarsi dell'oscurità, il libro, che è questa nostra ultima opera. E, il titolo, il diradarsi dell'oscurità, è una citazione, ed è una citazione, diciamo, all'incontrario. Adesso vi spiego un po' questo piccolo gioco di parole, perché serve proprio anche per capire meglio quel che dicevo prima. Poi mi fermo, perché sennò qua non arriviamo a dirvi le cose forse più importanti. Allora, è la citazione di uno straordinario libro di uno scrittore tedesco, che è Sebald, e il titolo del libro è Austerlitz, edito da Adelphi. È la storia di questo professore di storia dell'architettura, che si chiama Jacques Austerlitz, che si trova a vivere e a lavorare a Londra. Sebald lo descrive come una persona alta, dinoccolata, dai capelli prima biondi e poi ingrigiti, che vive in un piccolo appartamento spoglio, quasi come una cella, privo di affetti e povero di amicizie, in solitudine. Austerlitz gira molto per l'Europa con questo suo vecchio zaino, e gira non soltanto alla ricerca di tracce di quella tipologia di architettura di cui lui è grande esperto, che è l'architettura degli edifici militari, degli edifici concentrazionari, ma gira soprattutto, questo lo si capisce andando avanti nella lettura, alla ricerca delle proprie tracce, delle proprie origini, perché Austerlitz non sa chi sia, non sa chi è precisamente. E strada per strada, andando da Parigi a Praga, a Berlino, a Theresienstadt, scopre volto per volto, oggetto per oggetto, fotografie per fotografie, scopre un passato, che è il suo passato, che è un passato lacerante. Perché scopre di essere uno di quei bambini mandati via dalla Germania prima del vento delle leggi, diciamo, di discriminazione razziale, di persecuzione razziale, mandato in Inghilterra per essere salvato dalla distruzione, e scopre che i suoi genitori muoiono in un campo di sterminio e lui è l'unico sopravvissuto. E al termine di questo lungo percorso di scoperta della storia europea, della storia della Shoah, dello sterminio, della storia di se stesso, della sua famiglia, Austerlitz arriva ad una conclusione pessimistica, che noi abbiamo ottimisticamente rovesciato. E, dice Austerlitz per mano di Sebald: perfino adesso che sto cercando di ricordare, l'oscurità non si dirada. Anzi, si fa più fitta al pensiero di quanto poco riusciamo a trattenere, di quante cose cadano incessantemente nell'oblio, con ogni vita cancellata, di come il mondo si svuoti, per così dire, da solo, dal momento che le storie, legate a innumerevoli luoghi e oggetti di per sé incapaci di ricordo, non vengono udite, annotate o raccontate ad altri da nessuno. Bene, noi nei nostri 23 anni di vita non abbiamo fatto altro che ascoltare, annotare, raccontare queste storie, questi ricordi, e tramandarli in forma, diciamo, rielaborata agli altri. Il libro che voi vedete è quest'opera, insomma, in tre volumi, è dedicato appunto alla Seconda Guerra Mondiale, ed è così strutturato, ve lo dico, insomma, perché anche questo fa parte la cifra del nostro lavoro. È innanzitutto un grande racconto fotografico. Sono circa 3600 le foto contenute in questi tre volumi. Vorrei dire cinematografico, nel senso che usiamo spesso le tecniche cinematografiche utilizzando la fotografia. perché entriamo dentro la fotografia, entriamo dentro queste storie spesso nascoste dietro queste fotografie che risultano altrimenti anonime, e riportiamo in primo piano, in primissimo piano, qualche volta in dettaglio, questi volti e la loro storia. Dunque, davanti a questo enorme fondale cinematografico si aprono delle storie fotografiche che sono sostanzialmente degli album personali che noi abbiamo riprodotto, ritrovato e riprodotto, e che raccontano delle storie alle volte incredibili, come ad esempio l'album di Vittorio Vialli, che è questo, questo ufficiale della Val di Non che si trova prigioniero a Fallingbost, la Sandbost, come IMI, come internato militare italiano, e che riesce a portare con sé questa piccola Laika e clandestinamente fotografa il campo. E riporta poi in patria, qui da noi, insomma, riporta questi 400 e oltre scatti che lui ha in forma ancora di negativo, che non ha mai visto, che non vede subito, come spesso succede quando si è reduci da esperienze così forti, così laceranti, ma dopo qualche anno lui, soprattutto su impulso dei figli, sviluppa e dalla camera oscura, dagli acidi, vengono in superficie le foto straordinarie di questi campi. O altri esempi potremmo fare, ma insomma non c'è il tempo di farlo. E poi delle storie che noi abbiamo definito storie emblematiche, perché sono storie in gran parte individuali, ma qualche volta anche collettive, dietro alle quali ci sono storie di altri, molti altri uomini, molte altre donne. In particolare, anche perché ne parleremo questa sera, facendo qualche esempio, in particolare le storie di quei deportati civili trentini che dal 43 al 45 si trovarono prigionieri nei campi tedeschi, nei campi della Germania nazista, e dai quali molti di loro non tornarono. Una storia che è stata completamente rimossa dalla comunità, quantomeno dalla comunità trentina, dalla collettività trentina, di cui le istituzioni che sono tradizionalmente preposte a organizzare il ricordo non hanno mai fatto cenno, e la cui memoria è spesso proprio, diciamo, ormai quasi completamente persa, insomma. E noi abbiamo lavorato a lungo su questo, stiamo per usciremo per la giornata della memoria del 2013 con un dizionario biografico dei deportati trentini nei campi tedeschi. Se qualcuno di voi è incuriosito da questa cosa, interessato a vedere prima dell'uscita del libro le schede di questi deportati, sul nostro sito internet www.labstoriarovereto.it trovate tutte le schede di questi deportati con la fotografia, non in tutti i casi perché non siamo riusciti a trovarla di tutti purtroppo, ma insomma in gran parte. E Gianni Tomazzoni, adesso ne parlerà, è colui che ha coordinato e organizzato per conto del laboratorio questa ricerca. So che a Bolzano si va a mangiare presto, si va a dormire presto, per cui adesso dobbiamo fare un po' le corse, perché volevamo proprio darvi qualche esempio, anche visivo, di questo, diciamo, di questo percorso che noi abbiamo fatto e dei risultati di questa ricerca. Il valore della fotografia. Lasciamo perdere. No, sono gli unici documenti. Sì, ma è troppo, cioè non ce la facciamo. Bene. I deportati della Francia. I deportati della Francia, anche casomai ne parliamo dopo. La deportazione trasportazione dei, sì, dei malati. Sì. Va bene, allora lasciamo la parola a, a Giancarla, che vi racconta una di queste storie emblematiche, in questo caso una storia collettiva, una storia tristissima che riguarda il manicomio di Pergine. Avevamo preparato molte altre cose, ma non, non c'è il tempo per farlo. Va bene, scusa. Allora, la, la storia collettiva che raccontiamo ora interessa circa 300 persone, 299 malati che provengono in larga maggioranza dall'ospedale psichiatrico di Pergine, una trentina dalla colonia agricola di Vadena, altri da Nomi e un piccolo gruppo dalla Carinzia. Sono, la loro odissea inizia nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 1940, quando dalla stazione ferroviaria di Pergine parte un treno che ha come destinazione una città della Baviera, della, presso Stoccarda, dove ha sede un grande ospedale psichiatrico, Zwiefalten. Ufficialmente si tratta del trasferimento di malati da un ospedale psichiatrico ad un altro ospedale psichiatrico. In realtà questi pazienti sono tutti di madrelingua tedesca e il loro trasferimento avviene nell'ambito delle opzioni, ma nessuno di loro ha operato una scelta. Le famiglie non sono state avvertite nella maggior parte dei casi e in molti casi non, non è stata nemmeno verificata la, la scelta, l'opzione operata dalla, dalla famiglia. Ad accompagnarli c'è una delegazione di una quarantina di persone, una delegazione italo-tedesca, con il direttore dell'ospedale psichiatrico, il medico provinciale di Bolzano, e una serie di operatori sanitari e suore. Alla partenza, li vediamo qui il professor Rezza. Questo è l'arrivo. No, questo c'è già l'arrivo. Ma lo dico. Il trasporto. Bene, la realtà della Germania in questo momento è particolare, e, perché da anni in Germania, secondo i progetti eugenetici, vengono sterilizzate sistematicamente le persone disabili e i malati di mente, ma da settembre del 1939 è in atto un'operazione segreta voluta direttamente da Hitler che prende il nome di Aktion Tiefel, che prevede l'eutanasia per i malati di mente e di disabili. È stato trovato un sistema molto efficiente di eliminazione di questi gusci umani vuoti, come vengono definiti, e sono le camere a gas che per la prima volta vengono testate, provate su, questi, su queste persone in Polonia. Zwiefalten è uno degli ospedali psichiatrici che funge da centro di raccolta nell'ambito della, di questo grande progetto di schedatura di tutti i malati e di selezione progressiva. Chi sono questi malati? Sono 190 uomini e 139 donne. Sono per lo più di modesta origine, modesta appartenenza sociale, sono contadini, servi agricoli, ci sono un paio di seminaristi, un paio di frati, un ingegnere, un insegnante, tutti di religione cattolica tranne due donne di religione ebraica. Per quanto riguarda le patologie, sono semplicemente per lo più paralitici, epilettici, schizofrenici, con turbe della personalità e in moltissimi casi sono semplicemente hanno dei problemi di alcolismo. Sono degli asociali in buona sostanza. Quando arrivano a Zwiefalten solo pochi trovano le famiglie ad accoglierli e a sottrarli al ricovero nell'ospedale. Gli altri vengono a forza in alcuni casi trasferiti nel manicomio nel manicomio tedesco, e al personale che li accompagna è impedito l'accesso alle strutture. Non c'è nessun passaggio di consegna, non c'è nessun contatto col personale che se ne dovrà prendere cura, ed è chiaro che le intenzioni di chi li accoglie non sono rivolte all'attenzione, alla cura del malato. La tappa di Zwiefalten è solo un primo momento, perché successivamente il gruppo viene smembrato e suddiviso e trasferito in vari altri ospedali della Germania, e seguirne le tracce è veramente difficilissimo e non è stato il nostro compito. Di fatto circa il 48% dei malati che sono stati trasferiti non è più in vita alla fine della guerra. Noi non sappiamo quanti siano stati così eliminati nell'ambito dell'azione Tifir, anche perché nell'estate del 41 questo piano viene interrotto. Per la prima volta una legge che è stata emanata dall'autorità tedesca viene sospesa per paura di che si formi un'ostilità interna, un fronte interno di cui la Germania non ha bisogno in questo momento, molto impegnata nella guerra, e c'è una forte opposizione dell'opinione pubblica, in particolare delle autorità religiose, le autorità ecclesiastiche, che denunciano e si chiedono come è possibile pensare di eliminare sistematicamente tutti coloro che sono semplicemente considerati degli improduttivi, che costituiscono un grave peso per la società in questo momento, per la Germania che è in guerra, sono dei parassiti, che inutili bocche che mangiano, bocche che mangiano inutilmente. E il vescovo von Galen richiama l'attenzione su questa realtà e si chiede quando arriverà il momento in cui verranno eliminati i militari che ritornano dal fronte dopo aver servito la patria, anch'essi inabili perché distrutti nella mente e nel corpo dal conflitto, dovrebbero essere alla stessa stregua eliminati. Questa campagna porta alla sospensione dell'operazione, ma in realtà si tratta semplicemente di un cambio di strategia, perché si passa a quella che viene definita l'eutanasia selvaggia. Si procede alla sospensione di ogni terapia, all'abbandono nella più totale incuria di questi malati, che periscono in gran parte di inedia, perché vengono ridotte anche drasticamente le razioni alimentari, e in molti casi per epidemie di tifo o di tubercolosi. Volevo solo aggiungere che ancora negli anni successivi, nel 42-43, avverranno dei trasporti da Pergine verso la Germania. C'è un movimento ancora di una cinquantina di persone e la difficoltà poi alla fine del conflitto per i sopravvissuti sarà quella di trovare una sistemazione. Nella maggior parte dei casi rimangono sconosciuti negli ospedali psichiatrici della Germania, anche perché nei documenti che li accompagna non è registrata l'indirizzo della famiglia e solo degli apolidi non sono stati riconosciuti come cittadini tedeschi, non sono più cittadini italiani e quindi rimangono in un limbo per moltissimi anni, e fino nel 74 si protrarrà la ricerca e il ritorno accompagnato nelle comunità del Trentino. E adesso diamo la parola a Giovanni Tomazzoni, che qualcuno di voi conosce personalmente, per raccontare la storia di quattro Bolzanini. Mm. ingegnere, ma vedete. Il Bolzano pensava fosse tutto perfetto, invece. Eccomi. Dunque, nella nostra ricerca nel seguire le tracce, queste storie, di questi avvenimenti, spesso queste tracce portavano a Bolzano, non solo per motivi militari, logistici, ma anche perché le comunità trentine e bolzanina erano molto vicine e connesse. Per non parlare poi di quei comuni di fascia mistilingue che erano appartenenti alla provincia di Trento fino all'8 settembre, che poi furono aggregati a Bolzano durante l'occupazione, tornarono in provincia di Trento fino allo statuto di autonomia che diede definitivamente alla provincia di Bolzano. Quindi sono solo quattro esempi di come le storie si intrecciano passando per le strade di Bolzano, per i paesi dell'Alto Adige. In questo caso sono dei deportati civili che non sono più tornati dai campi di concentramento nazisti. Il primo è Emilio Dal Lago, trentino, nato a Levico, ma trasferitosi per lavoro a Bolzano, sposò una ragazza di madrelingua tedesca. Qui vedete un matrimonio povero, perché è un matrimonio del tempo di guerra. Ebbe una figlioletta che tuttora vive a Bolzano. E lui lavorava alla CIT, si era trasferito a Bolzano, se si vede, dopo la morte del fratello, grande alpinista. Erano entrambi appassionati di montagna, quindi si vede in montagna, Dal Lago in piedi con la corda in braccio, e Adriano morto sulla marmolata, quello seduto alla sinistra, e appunto D'Emilio che morirà a Mauthausen. In mezzo due amici hanno riconosciuto, uno di loro è il dottor Martinelli, direttore del dispensario tubercolare dell'Alto Adige, e l'altro sarà il fratello, perché assomiglia, non lo so. Ecco, tornando al nostro Dal Lago, lui lavora alla CIT in Piazza Walter, o Piazza Vittorio Emanuele forse a quei tempi, e si lascia andare a qualche espressione di scetticismo e anche di critica verso l'andazzo delle cose. Insomma, è oramai l'8 settembre era passato e non vedeva futuro per quella politica, per quella situazione. Fu ascoltato, fu sentito, fu denunciato, ebbe dei guai. Poi, grazie alla sua conoscenza della lingua tedesca, all'intervento degli amici, lo rilasciarono, ma era fortemente sospettato e tenuto sotto controllo. Qualcuno gli consigliò di andare via, trovò delle amicizie, delle parentele a Cesena, si trasferì a Cesena, ma lì lo fecero prigioniero i militi della Repubblica Sociale, lo consegnarono all'esercito, lo portarono in prigione a Bologna, poi da Bologna al campo di transito di Fossoli e poi da lì a Mauthausen. Arrivato a Mauthausen viene smistato in alcuni sottocampi di lavoro, una la costruzione della grande centrale, poi ritorna a Gusen dove c'erano questi lavori nelle cave, lavori per materiali edili, e lì muore un compagno di prigionia austriaco. Scrive alla famiglia nel gennaio del 46, dice: solo ora posso scrivere, perché finora non era possibile per il blocco dei servizi postali. Vi informo che il vostro parente Emil è morto la notte il giorno di giovedì santo, aprile, marzo del 45. E io ho promesso a lui sul letto di morte, insomma, che stava morendo, di avvertirmi, di farvi sapere questo. Ecco, uno scritto molto asciutto, molto, molto impressionante nella sua tragicità, insomma. Un altro bolzanino, io lo chiamo bolzanino perché lavorava alla Lancia, lui era di Castello Tesino, lavorava allo stabilimento della Lancia, non si sa come non riuscì a farsi passare per operaio in un'azienda strategica di importanza bellica, e per cui lo chiamarono alla leva, i tedeschi in questo caso, perché Bolzano era una delle tre province dell'Alpenvorland, ma era la più tedesca di tutte, insomma. vedete Muscarus Ausweis, e lui o si presenta e poi scappa, o è renitente, si nasconde nel Tesino, però per un qualche motivo, forse una delazione, viene catturato e finisce anche lui in un campo di concentramento, finisce a Buchenwald, dove non torna. Il percorso è leggermente diverso, perché lui è stato giudicato da una corte marziale della SS, in quanto, avendo ricevuto il foglio di leva, insomma la chiamata alle armi, era considerato un militare tedesco e quindi è stato condannato da questa corte a 10 anni, mi pare, da scontarsi nel lager di Buchenwald. Cioè sono dei cortocircuiti fra la giustizia, quella militare, quella civile, la gestione dei campi di concentramento per civili, che non si capisce bene, ma evidentemente seguivano anche loro una certa logica. Se torniamo un attimo indietro sulla prima foto, ecco, qui lo vediamo insieme ad altri operai nella zona industriale di Bolzano. Il sacerdote nel mezzo è un vero preto operaio, è Don Angelo Longhi, che finirà nel lager di Bolzano per qualche mese, proprio per la sua attività di sostegno agli operai e di loro. Lui ha il cappotto, è quello col cappotto sulla destra, cappotto grigio con un grande risvolto. E qui è lo stabilimento Lancia, o credo, sì, come lavorava la Lancia. Ecco, questo vedete è un biglietto della Lancia che dichiara che lui è operaio presso di loro. Ecco. Non è tornato. Lui nel retro di quella cartolina scrive alla moglie, per la verità, alla ragazza che era incinta, che non ha potuto sposare, e dice: ho parlato della nostra situazione anche con Don Longhi, che conosce la nostra storia e che mi ha consigliato di volerti ancora bene, insomma. E insomma non è riuscito a sistemare questa faccenda, e la figlia, vivente tuttora, porta con sé questo ricordo così amaro, insomma tenero e amaro allo stesso tempo. Porta il cognome del padre, però porta il cognome del padre, perché è stato riconosciuto in un certo senso la paternità del ballerino, si chiama ballerino. Tullio De Gasperi non è parente, credo, di una famiglia di Mattarello, un sobborgo di Trento. Il padre fa il portalettere e lui nasce ad Ala nel 1906, è un impiegato delle poste austriache, insomma. Nasce lì per caso, una famiglia di Mattarello. Poi si diploma tecnico, è bravo e viene assunto al Magnesio, reparto manutenzione, e lì entra in contatto con questa cellula di resistenza e di opposizione al fascismo prima e al nazismo dopo, in una zona industriale di Bolzano che, pur così immersa in un contesto poco favorevole per la presenza di militari tedeschi, della popolazione tedesca, che evidentemente non poteva essere così affidabile, e non lo erano neanche gli italiani qualche volta. E pur in questo contesto sviluppa un'azione di resistenza degna della classe operaia e delle grandi classi operaie, quelle di Torino, quelle di Milano, insomma. Ed è notato che costò la vita ad alcuni di loro. Due di loro, di questi morti nei campi di concentramento, sono due trentini, il De Gasperi e il Ferrari Erminio, di Condino o di qualche posto del genere, che era vigile del fuoco a Bolzano. De Gasperi, prima di partire, fa cadere un bigliettino dal treno, un bigliettino che dice che sta partendo per Mauthausen, e i figli tuttora viventi mi hanno raccontato che si presentò all'uscio di casa in via Torino un vecchio con la barba, dice, pareva un San Giuseppe, e consegnò loro questo biglietto. E qui c'è i saluti per tutti. Bacciami forte, forte. Ecco, naturalmente l'abbraccio. Tra l'altro, un rapporto con la moglie che non era del tutto lineare, nel senso che aveva avuto dei sapori, insomma. però al momento di partire, insomma, prende commiato e qui in via Torino, insomma, non tanto lontano da qua. In ogni caso abbiamo anche un'altra quarta storia, quella di Lidio Cavazzani, un ragazzo di Avio. Diciamo che lui andò a Mauthausen partendo dal lager di Bolzano, ma la sua storia è legata a Bolzano anche perché lo zio è stato per lunghi anni direttore dell'Alto Adige, Servilio Cavazzani, quindi è un nome che editore che, scusa, molti ricorderanno. Ecco, la foto di famiglia rappresenta, è tipica, nel senso che rappresenta la grande famiglia patriarcale. Tra l'altro il padre, che è quello vicino ora in primo piano, si era sposato una seconda volta dopo essere rimasto vedovo, quindi una famiglia numerosa, e c'è dentro di tutto, c'è anche appunto il cavalier Servilio, in secondo piano, col cappello, credo sia lui. C'è il povero Livio, che è quel ragazzo sullo sfondo, in mezzo, in ultima fila, eccolo qua. E c'è il fascista, c'è chi muore a Mauthausen, c'è chi fa una vita onorevole e civile. Insomma, le famiglie venivano spesso lacerate. Cioè, quella era un'epoca in cui i sconvolgimenti penetravano all'interno delle famiglie con delle lacerazioni che poi era difficile risanare anche dopo. Ci sono famiglie con dentro il partigiano e il delatore, insomma, magari i fratelli, è una cosa tremenda. Dopo il ritorno alla normalità deve essere stato anche molto faticoso, perché queste tragedie non si compongono tanto facilmente, è difficile fare l'amnistia su queste cose. Ecco, lui era a Innsbruck operaio, ha voluto tornare nonostante la raccomandazione di tutti, anche parenti che erano a Innsbruck, che facevano i commercianti di vino, e tornò e si rifugiò dal padre. Il padre dice: io ne ho già 60 qua, esentati, perché raccolgo la legna per tutti i forni industriali, per i panifici, fino a Verona. Dice: vai, nasconditi in un forno di Verona, mio cliente, e non farti vedere mai, esci solo di notte. Lui invece pensò di andare con i partigiani, andò sul Monte Baldo, dove c'era un gruppo, brigata Avesani. Avesani è uno studente di legge morto, nello Stato di Padova, morto, ucciso dai tedeschi, però l'incontrò, non si sa bene, insomma, rimase ferito una certa notte. Il malgaro che lo soccorse non ha dato una spiegazione molto chiara, e ancora adesso nemmeno i familiari sanno cosa è successo. Il padre andò a prenderlo col camioncino, era già sorvegliato e piantonato all'ospedale di Ala, restò un paio di mesi, credo, e lui si procurò un'altra frattura pensando di cavarsela, no? E invece rimase solo meno matto. E quando arrivò a Mauthausen lo misero in questo reparto di questa infermeria a Rivière, famoso perché era la Weberheil, una tessitura, portavano, dice, tutti i rottami di metallici, di gomma, di tessuto, e noi intrecciavamo e facevamo tappeti. Questo racconto poi il Cavazzani lo fece a un compagno di prigionia sopravvissuto, che è Pantozzi, Aldo Pantozzi, notaio a Bolzano, quindi insomma non è che si va molto lontano, le storie si intrecciano e ci portano sempre su questi percorsi. Tempo fa cercavo tracce di un Perino Umberto, siccome abbiamo noi Perini Attilio, che è trentino, che è morto in Buchenwald, mi pare, pensavo fosse parente, non sono riuscito ad appurarlo, probabilmente no, e le tracce mi hanno portato prima all'Acces, dove era segretario comunale, poi la residenza l'ho trovata in Germania, in un archivio tedesco, la Croce Rossa, ma adesso passerà ai tedeschi definitivamente. Su una scheda di registrazione c'era scritto che la famiglia viveva in via Pola a Bolzano, e via Pola non sapevo neanche dove fosse. Ho scoperto che è una viuzza che collega via Torino e via Dalmazia, dietro la Cassa di Spagna. C'è ancora la Cassa di Spagna? Le tracce sono qui vicine. Se penso a mia cugina, che è a capo dell'organizzazione che aiutava i detenuti nel lager di Bolzano, con il nome di battaglia di Anita, mia cugina Franca, gli ultimi anni di vita a Bolzano li ha passati due isolati da qua, Corso Italia, girate a sinistra, e il secondo isolato è la sua abitazione. e poi abitava a Palazzo Rossi, insomma le storie ci portano molto vicino, ecco perché siamo stati contenti di venire a parlarne a Bolzano. E il Trentino e i Trentini non traggono l'inganno, è una storia di respiro più ampio. Ecco, io ho finito con degli esempi, se ci sono domande, poi abbiamo ancora qualcosa. Diteci voi se... se possiamo andare avanti, se volete che discutiamo un po', non so. Adesso sarebbe la volta del fantomatico Filippini, che è sempre mimetizzato a raccontare una storia davvero drammatica, oltre che paradossale, nel suo sviluppo. Fantomatico. È la storia di Leonardo Dalla Sega. Vedete voi, un soldato tedesco. Leonardo. Piuttosto. Sì, è una vicenda che chiarisce, che spiega meglio di tante altre forse, così la follia e anche la brutalità delle ultime settimane di guerra, quando ormai la guerra era inevitabilmente e chiaramente finita, e finita con la sconfitta del nazismo, e però in questi giorni appunto che avvicinano alla pace definitiva succedono eventi terribili, eventi che lasciano ancora più sgomenti di fronte alla brutalità appunto. La storia di Leonard Dalla Sega è una di queste. Quest'uomo era nato a Provesse, sapete Provesse, a cavallo tra Trentino e Alto Adige sulle montagne, in Val d'Ultimo. Niente, una persona di lingua tedesca, all'epoca è nato nel 1913, quindi lui vive i primi anni del fascismo, fa il militare nel 1934, viene chiamato militare alpino e va, lo mandano in Africa, e per 2 anni lui fa il soldato nell'Africa orientale italiana, poi torna e ormai siamo vicini alla scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1939 ci sono le opzioni, vengono lanciate le opzioni, e lui, che è appunto di lingua tedesca, opta per la Germania, però non si muove da Bolzano, dove nel frattempo si era trasferito, rimane a Bolzano, si sposa e avrà anche 4 figli. Nel 1943, dopo l'8 settembre, viene arruolato, questa volta però nella Wehrmacht, cambia divisa, e viene nominato caporale ed è spedito a Verona come furiere presso il reparto di SS. E lui resta, il suo ruolo in pratica è quello di tramite tra i soldati, i nazisti e la popolazione locale di un paese vicino a Verona. Avvicinandosi, ecco, se arriviamo al momento più terribile di questa vicenda, avvicinandosi alla fine della guerra, lui si rende conto appunto chiaramente di come stanno andando le cose, a un certo punto decide di scappare. Scappa in bicicletta e si avvia lungo la Val di Lasi, chi conosce un po' Verona, Negrar, quei posti, per cercare di scavalcare i Lessini e portarsi poi in Val dell'Adige e raggiungere la famiglia a Bolzano. Alla sventura purtroppo di imbattersi in una pattuglia, un comando, non lo so quanti uomini fossero, di paracadutisti tedeschi, che lo prendono e lo bloccano e lo catturano in pratica. Questi stessi paracadutisti, proprio quello stesso giorno, stiamo attenti, è il 27 di aprile del 1945, quindi la guerra è finita. Quello stesso giorno questi tedeschi hanno un contatto, non si capisce bene, ma diciamo una piccola scaramuccia con dei partigiani, ma senza che ci siano feriti o morti. Però in questa occasione i paranazisti bloccano un prete, è il parroco del paese di Giazza, che è sui monti Lessini, lo bloccano, lo considerano un amico dei partigiani, amico dei banditi, e lo portano con loro, anzi lo utilizzano come guida, visto che conosce la zona, per attraversare la montagna e scendere in valle. quando arrivano giù praticamente a Ala, vicino ad Ala, lo premiano decidendo di fucilarlo. E nel plotone di esecuzione il comandante di questo reparto nomina anche Leonard Dalla Sega, che era, nel frattempo era stato costretto ad andare con loro. Questo uomo però si ribella, dice no, io non uccido questo prete, non lo uccido perché no, e soprattutto perché sono cristiano, sono cattolico, io non potrei mai neanche pensare di ammazzare, di fucilare un sacerdote. I suoi ex camerati, diciamo così, e non fanno una piega, lo degradano, gli tolgono tutti i documenti, anche la piastrina, lo mettono accanto al prete e uccidono anche lui. I due vengono fucilati via lato della strada e i loro corpi buttati in un fosso. A questa vicenda assistono di lontano un paio di persone, contadini, che quindi hanno la possibilità anche di raccontarla proprio in questi aspetti così finali. Ecco, questi contadini, poi quando i tedeschi se ne sono andati, recuperano i corpi delle due persone. Il prete lo conoscono, sanno chi è perché è della zona. Però l'altra persona non sanno, vedono solo che è un tedesco, è vestito con una divisa tedesca. Ecco, i due vengono sepolti nel cimitero di Ala, poi il nostro Leonard Dalla Sega, ancora sconosciuto, viene trasferito al cimitero militare di Merano, dove è sepolto sotto un cippo dove sta scritto Ein Deutscher Soldat. Solo dopo 40 anni, e grazie al lavoro di ricerca su questa vicenda compiuto da due sacerdoti di Ala, della zona di Ala, che hanno voluto approfondire la vicenda e del loro collega, insomma, che è stato ucciso, sono riusciti a risalire e a dare un nome a questo sventurato che venne fucilato insieme al sacerdote. Cioè questo è il dato che più fa pensare, era il 27 aprile del 1945, la guerra era di fatto già finita, però per qualcuno la brutalità era sempre un esercizio da sviluppare e da coltivare. Questo è tutto per la vicenda di Leonard Dalla Sega. Dietro le quinte, diciamo, visto che parliamo di cinema. Oppure i francesi. Diciamo che questo è un po' l'andamento di questo nostro lavoro. Ed è l'andamento anche del libro, un andamento che voi capite parte un po', diciamo, in sordina, no? Nascosto dietro queste immagini olografiche ufficiali di parate di regime, eccetera, e poi si trasforma in questa tragedia immane che abbiamo raccontato per esempi, per frammenti. Potremmo naturalmente continuare, non dico all'infinito, insomma, ma per ore e ore a raccontare storie di questo genere. E forse un accenno a quella dei francesi, magari possiamo farla senza andare nel dettaglio, ma più che altro per farvi capire dove può arrivare la ricerca se fatta in un certo modo. Qua siamo in Francia, allora in Francia perché voi vedete quattro, ma sono soltanto alcuni dei 22 trentini che vengono deportati nei campi tedeschi, sono emigrati in Francia dal Trentino negli anni 20. In qualche caso sono anche naturalizzati francesi, cioè hanno la cittadinanza francese. È difficile seguire le tracce di queste persone, perché sono uomini, sono degli anonimi. Nemmeno nei paesi da cui loro sono partiti negli anni 20 c'è più traccia della memoria di questi uomini. E la ricerca è ancora più difficile, diventa ancora più difficile se le tracce lasciate, minime, labilissime tracce lasciate da questi uomini, sono disperse in Francia. In questo caso, nella storia di questi tre, Pio Sartorelli, Pietro Poli e Cesare Andreatta, sono tracce che partono tutte dalla Valsugana. Pio Sartorelli, vedete, nato a Torcegno, Pietro Poli nato a Bludenz perché la famiglia era già emigrata lì, in realtà di Strigno, e Cesare Andreatta nato a Levico. Tutti e tre subito, intanto diciamo che vivono fin da subito l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, la vivono da profughi, ritornano fra il 18 e il 19, ritornano nei loro paesi, lì la miseria invece che calare, a parte i primi 2 anni, che sono 2 anni in cui la ricostruzione porta un certo benessere, porta lavoro, insomma, anche agli abitanti di paesi distrutti, la miseria cresce. E come unica via d'uscita rimane l'emigrazione, e questi tre emigrano tutti chiamandosi uno con l'altro, con la solita catena, classica catena dell'emigrazione, emigrano in Francia, nella regione dell'Alsazia, a fare i cavatori, a fare i minatori, a fare i poveri cristi anche là, e rimangono lì fino all'ottobre del 1944, quando il paese dove vivono, dove lavorano e vivono, che è Senon, viene circondato dai tedeschi, dall'esercito tedesco, che fa una retata come risposta ad una azione del macchismo, insomma, della resistenza francese. E catturano tutti i maschi adulti del paese. Fra questi ci sono anche i nostri 3 trentini, 4 sarebbero, vabbè, insomma, 2 dei quali muoiono ad Auschwitz e 1 muore a Ohrdruf, che è un sottocampo di Buchenwald. E così termina la loro esistenza di povertà, di miseria, di emigrazione, e, diciamo, termina nel peggiore dei modi. E, raccogliere le fotografie di questi uomini, e credeteci, un uomo senza volto è un uomo ancora in qualche modo a metà, insomma, per quel che riguarda la nostra memoria, ma spesso stavo per usare questo termine, la caccia, insomma, al volto di questi uomini è una caccia molto lunga, insomma, perché bisogna risalire ai parenti, ma sono parenti ormai molto lontani, sono parenti che spesso non custodiscono la memoria di queste persone, e qualche volta le fotografie sono disperse nelle eredità, nei trasferimenti, nei traslochi, eccetera, e però è importante, è fondamentale, quando si lavora su questi temi così, diciamo così, delicati, così pietosi, ritrovare, ricostruire, cioè dare un'identità, dare un volto, un corpo, un volto, insomma, alla persona di cui si sta cercando di ricostruire la storia. È una passione quella che anima i ricercatori, che ci anima, ma è anche una compassione. Spesso il rapporto con le famiglie, con questi eredi lontani, con questi parenti lontani, è un rapporto che non è semplicemente una trasmissione, cioè non si concretizza, non si realizza in una semplice trasmissione meccanica di qualche oggetto, di qualche ma sì, c'è qua la foto, ma sì, vi racconto qualche cosa, no, è davvero un momento di grande intensità emotiva. perché spesso nemmeno loro si sono resi conto, si rendono conto di quel che è stata la storia di questi uomini. Qualche volta siamo noi a raccontare a loro che cosa è successo, dove sono morti, quando sono morti. Abbiamo trovato dei casi, ci siamo imbattuti in casi in cui, uno in particolare, in cui i parenti ci raccontavano che andavano spesso in pellegrinaggio in un campo di sterminio a ricordare la morte del loro padre in quel caso, e noi sapevamo e abbiamo detto loro che non era morto in quel campo, era morto in un altro campo, e loro facevano questi pellegrinaggi su un falso luogo di ricordo. Sì, anche i ballerini, certo, anche i ballerini. Oppure anche come sono morti, come nel caso appunto di Hildesheim. Il ballerin che abbiamo visto prima, i familiari credevano che fosse morto a Mauthausen perché tutti i suoi i compagni di questo giovane che erano stati catturati erano finiti a Mauthausen. A Mauthausen c'è una lapide con sul nome. In realtà dalle carte è venuto fuori, le carte che abbiamo cercato e trovato noi, che è stato condannato da questo tribunale militare dell'SS che aveva sede a Prin, vicino a Chiemsee, dove si era trasferito da Monaco perché era stata bombardata la sede principale, e che questi l'hanno condannato e l'hanno portato a Buchenwald. In Germania avevano trovato la carta d'ingresso, quelle di Buchenwald, se ci sono molto ordinate, spesso portano questa croce rossa sopra, e allora si capisce che è deceduto, insomma. E i familiari non lo sapevano. Questa foto che vedete è un'altra foto che spiega quel contrasto, quell'ambiguità, ma anche quei contrasti forti che c'erano all'interno delle famiglie. Il povero Boccia sulla destra è morto ad Auschwitz, quello in centro, che è questo Bocciazza, qui lo vedete già adulto, non si era presentato a far la naia, e naturalmente il tribunale di Verona lo ha condannato per diserzione a non so quanti anni, e lui era in Francia a lavorare, quindi si è ben guardato dal tornare, purtroppo è finito male. Quel ragazzo in mezzo è un fratello che si fece prete, poi c'è il bersagliere, poi ce n'è uno che in questa foto per fortuna non c'è, che è stato federale a Trento o a Levico, dove insomma, quindi perfettamente allineato con il fascismo. Guardate che tipo di miscellane, è una famiglia che così per gli affetti sembrerebbe ed era unita. E queste storie qui, con l'aiuto di alcuni discendenti e con la buona volontà e il colloquio, è stato dato un nome a tutti questi personaggi, è stato il capo in persona che è andato. Alle volte scriviamo in Francia, ci rispondono magari la vedova di un deportato che è rientrato, ci racconta che ha fatto il minatore, che poi è morto, e ci dà queste informazioni preziose per ricucire il percorso di vita di questi nostri trentini emigrati. Forse è meglio qualche domanda. Chiudiamo, se avete qualche domanda. Prego. Non è per fare una domanda, ma per fare una precisazione. E, con tutto il rispetto per i paracadutisti germanici, devo dire una cosa, che in quei tempi lì i paracadutisti avevano una fama ancora peggiore delle SS, e non c'è proprio molto da stupirsi sul fatto, perché naturalmente uno dice, ma come, questo è morto il 27 aprile del 1945, cioè a guerra finita. Non c'è da stupirsi, perché fenomeni di questo genere, casi di questo genere, mi succedevano abbastanza spesso. Perché? Perché i paracadutisti avevano la bella abitudine di prendere ostaggi. Quando avevano difficoltà a entrare, a passare attraverso un paese, prendevano una persona che naturalmente avevano un motivo per pensare che avesse avuto rapporto con i partigiani o cose di questo genere, la mettevano davanti e gli facevano aprire la strada. E io potrei dirvi appunto di casi qui nelle vallate circonvicine, dove loro, due partiti, dove i paracadutisti sì, reagivano in questo modo. Sarà stata anche, diciamo, la fretta di tornare a casa, vate la pesca, io non lo so, ma questi qui venivano probabilmente, era truppa molto fresca, senza scrupoli, che veniva dal fronte e non guardava in faccia nessuno, no? Però che raccogliessero ostaggi e che poi li fucilassero quando le cose non funzionavano secondo i loro desideri era abbastanza frequente. No, sì. Noi abbiamo anche il caso della strage di Stramentizzo, Molina, Tiziano, l'ultima grande strage in Italia, è stata fatta per un fatto analogo, cioè nel senso che un reparto di truppe speciali della Bergschule, insomma, scuola di guerra di montagna, dislocata a Predazzo nella sede della Guardia di Finanza, è comandata da un fanatico nazista austriaco, Schindler Holzi. Si ritirava tornando dal Monte Baldo dove doveva prestare le ultime difese, quando hanno visto che la situazione non andava bene sono tornati, si sono trovati la strada disturbata da qualche partigiano un poco accorto, ma lì in quel caso erano probabilmente partigiani bene. Insomma, c'è stato uno scontro, hanno ucciso due di loro e di conseguenza poi loro hanno coppato decine di civili. Beh, hanno incendiato i due paesi, cioè hanno raso al suolo. Questo reparto era comandato da questo Alois Schindholz, che io ho trovato una lettera dove lui scrive da Predazzo dicendo: ma io ho perso la moglie e la casa a Innsbruck durante un bombardamento, quindi chiedo di poter essere avanzato di grado, perché chiede dei favori, dice, e per farsi bello dice: io appartengo ai nazisti illegali, cioè si fa bello del fatto che lui ha appartenuto al movimento nazista quando era illegale. Bene, se uno si fa bello di una illegalità siamo a posto, insomma. Beh, era un vero brigante, pugile da giovane. Vabbè, lì poi c'è la storia della figlia che si è dissociata da manifestazioni di ricordo onorevole. Quando lui è morto, insomma, tutti i suoi commilitoni gli hanno fatto articoli sul giornale di Innsbruck lodando l'eroico comportamento di questo, insomma, il suo motto era la fedeltà, insomma, la sua parola d'ordine, e ha scritto questo involontariamente anche, credo, a nome dei parenti, e la figlia ha mandato una smentita sul giornale. La figlia è andata in uno di questi paesi dove c'era stata una strage, Cauria, oltre al passo di San Pellegrino, a scusarsi con gli abitanti e a prendere distanze, insomma, è una persona molto, molto coraggiosa, però ha sposato un inglese. Va bene. Sì, poi a proposito di date, va detto che il 25 aprile è la data in cui istituzionalmente e tradizionalmente si celebra, diciamo, si ricorda la fine della guerra, ma da noi cioè, a Rovereto è finita il 2 maggio, a Trento è finita fra il 3 e il 4 maggio, quindi insomma sono, diciamo, ufficialmente le 2 maggio. Ultime propaggini. In Italia il 2 maggio e in Europa l'8. Sì, quindi insomma il 27 giorno. Aprile è ancora guerra, insomma. Portata richiesta. Se c'è... Questo vuol dire che non posso parlare adesso? Sì, questo è... Posso ringraziarvi? Nanti di Bolzano ringrazia lo studio di Rovereto perché ci aiuta a proporre, e vorremmo che anche a Bolzano vivesse l'organismo di questo genere, perché abbiamo molte storie e molte memorie da non dire. Vi lasciamo qua Tomazzoni adesso, non lo riportiamo neanche a Rovereto e anche Filippini, che è un po' bolzanino. Uno dei nostri, che è De Gasperi, che era il capocellula, certo, alla fabbrica, De Gasperi è partito assieme ad altri 6, certo, e nessuno di questi 7 è tornato o da Mauthausen o da Gusen, dove è morto. Certo. sono state coperte dall'ultimo treno che è partito l'11 febbraio 1945, era quasi finita la guerra. E sono stati portati via in 600, e parecchi di loro non sono tornati. Per fortuna è tornato Aldo Pantozzi, che ha scritto il primo libro sulla deportazione, Sotto gli occhi della morte, che è stato documento d'accusa nel processo di Norimberga. Gli uomini non solo sopravvivono, ma mantengono la loro umanità, ma servono anche ad accusare le cose in modo che queste cose vengano collocate bene nella storia. È un libro molto bello, adesso c'è anche edito in tedesco. Ecco, io mi riaggancio anche a quello che ha detto il senatore Leonello Bertoldi. La biblioteca in questo senso è operativa dal 2001, stiamo raccogliendo anche noi foto, memorialistica, diari. Abbiamo qui molte persone come Ada Vita, la signora De Rol e altre persone che ci hanno così consegnato le loro memorie. Abbiamo anche organizzato delle serate e continueremo andando avanti come fa l'AMPI del resto con i quaderni della memoria. Ecco, c'è a Bolzano, ci sono degli enti, delle associazioni che si stanno muovendo in questo senso, e la biblioteca, devo dire che come ente pubblico può anche garantire un percorso, una custodia di queste memorie e un'accessibilità, diciamo. Quindi vi invito a consegnarci eventualmente, se avete piacere, i vostri ricordi. Ci permettete di concludere con utilizzando quel che scrisse nel 1938 la poetessa russa Akhmatova, dopo che per 7 mesi aveva atteso e aspettato notizie del suo compagno che era rinchiuso nelle carceri delle Croci a Leningrado, accusato di essere un oppositore del regime stalinista. L'Akhmatova, dopo questa esperienza, scrive questo straordinario, questo stupendo poemetto intitolato Requiem, in cui racconta appunto questa sorta di veglia collettiva, perché ovviamente non era sola, era assieme ad altre, e scrive: ci si levava come una messa mattutina, si andava per un'inselvatichita capitale, là davanti a questo carcere ci si incontrava più inanimate dei morti. E nella prefazione del poemetto scrive: negli anni terribili della repressione ho passato 17 mesi in fila davanti alle carceri di Leningrado. Una volta qualcuno mi riconobbe. Allora una donna dalle labbra livide che stava dietro di me e che sicuramente non aveva mai sentito il mio nome, si riscosse dal torpore che era caratteristico di noi tutte e mi domandò in un orecchio, lì tutti parlavano sussurrando, ma questo lei può descriverlo? E io dissi: posso. Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che un tempo era stato il suo volto. Anche noi del laboratorio di storia del Veneto spesso diciamo: piccolo. Possiamo.